Mercato Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. La droga. Ma il mate mi aiuta, Ma non ho assaggiato la coca. Questo è chiaro, È chiaro che non perde il suo umorismo mai Papa Francesco, anche questo volo di ritorno dal suo lungo viaggio in America Latina, e assicura che la coca non l'ha provata, anche se è stata regalata in America Latina. Ha preso però con sé quel crocifisso un po' particolare che avete visto fissato su una falce e martello, quello l'ha detto che se l'è preso come un regalo, giustamente, a Cavaldonato non si guarda in bocca, e poi ha detto però che il mate è una sostanza che consumano lì in America Latina, che dà una certa energia. Io avevo offerto anche questa cosa, non l'ha presa. Dall'umorismo del Papa però passiamo a cose, diciamo, un po' più pragmatiche, perché parleremo di Grecia. Sapete che c'è stata questa maratona di 17 ore dell'Eurosummit in cui sembra che si sia arrivati a un accordo lacrime e sangue, ne parleremo tra poco. E poi vi vorrei chiedere anche se secondo voi l'impressione che avete alla fine di tutto ciò, anche se non siamo proprio alla fine, è Tsipras, il primo ministro greco, ha vinto o ha perso? Sapete che ci sono sempre due canali vostri per intervenire qui a Effetto Notte, che sono, lo dice la stessa parola, la parola Facebook, la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure i messaggi al 349-238-6666. Proprio rispondendo a questa domanda, avete l'impressione che il primo ministro greco Tsipras, con questa intesa raggiunta, abbia vinto o abbia perso? La sua strategia lo ha portato, insomma, a essere vincente in tutta questa trattativa, o alla fine, come qualcuno ha detto, i suoi detrattori, ha calato le braghe? 349-238-6666 per gli sms, oppure la pagina Facebook di Effetto Notte. Poi ovviamente parleremo di molte altre cose, e parleremo dei Marò, perché sembra che ci sia una novità. Intanto è stato prorogato il periodo per la Torre, che sapete ha problemi di salute, quindi resterà ancora in Italia. Però ci sono anche altre questioni di cui parleremo, e poi una notizia triste, che però speriamo abbia subito un esito positivo, per Ivan Basso, ciclista campione italiano, che ha annunciato oggi in una conferenza stampa che lascerà il Tour de France perché gli hanno diagnosticato un tumore al testicolo. Sentiremo chi lo conosce bene, il nostro Piero Augusto Stagi, ma anche un urologo, per capire quali sono possibili sintomi, possibili cause, insomma, visto che si dice che gli uomini fanno anche poca prevenzione, meno delle donne comunque. Allora, mentre voi fate le vostre riflessioni, se ha vinto o perso secondo voi, io intanto vi racconto la giornata. Grecia, accordo raggiunto, Atene ha 3 giorni per le riforme, ma Siriza, il partito si spacca, l'ira degli euroscettici, da Grillo a Salvini, festeggiano invece le borse. Il caso dei Marò, l'India concede alla Torre altri 6 mesi in Italia e accetta l'arbitrato internazionale, la Farnesina assicura, faremo di tutto per far rientrare anche Girone. La vicenda della Costa Concordia, nelle motivazioni della sentenza di condanna, i giudici scrivono che l'inchino della nave fu un gesto criminale e che Schettino, lasciando la nave, determinò il decesso delle 32 vittime. Ciclismo, la rivelazione shock di Ivan Basso, ho un tumore al testicolo, lascio il Tour de France. Nintendo, morto a 55 anni il presidente, Iwata con la Wii ha rivoluzionato i videogiochi. Partiamo quindi dall'accordo raggiunto nottetempo sulla Grecia, un accordo arrivato in extremis che deve però ottenere il via libera di Atene, quindi del governo, ma anche dal Parlamento tedesco. Ripercorriamo intanto questa lunga notte. L'Eurosummit più lungo della storia si è concluso con un accordo che scongiura la Grexit, anche se il via libera ad aprire il negoziato è pieno di condizioni, con l'ultima parola che arriverà solo a fine settimana. In cambio del piano di aiuti da 86 miliardi in 3 anni erogati dal Fondo Salva Stati, l'Eurozona ha chiesto ad Atene una serie di riforme da approvare tassativamente entro mercoledì. Le misure riguardano, tra l'altro, pensioni, IVA, adozione del codice di procedura civile e direttiva sul salvataggio delle banche. Mercoledì un nuovo Eurogruppo si riunirà per valutare l'impegno greco. Nel frattempo, quei paesi che devono sottoporre l'accordo ai loro parlamenti, tra i quali Germania e Austria, convocheranno i deputati, ed entro la fine della settimana si dovrebbe arrivare al via libera definitivo. Dopo l'approvazione del primo pacchetto, i governi daranno mandato a Banca Centrale Europea, Fondo Monetario Internazionale e Commissione Europea di negoziare il vero e proprio memorandum triennale, che dovrà essere approvato dai governi. Imposto inoltre ad Atene un fondo, che avrà base in Grecia, in cui verranno versati attivi per 50 miliardi di euro. Denaro che, secondo il presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem, che è stato oggi rieletto per un nuovo mandato di 2 anni anni e mezzo, verrà utilizzato per nuovi investimenti, ridurre il debito pubblico, ricapitalizzare le banche greche con 25 miliardi di euro. Per il presidente della Commissione UE, Jean-Claude Juncker, non ci sono né vincitori né vinti. L'accordo non è né umiliante per i greci né gli altri europei perderanno la faccia. È un tipico accordo europeo. Sulla Grecia è stato approvato il piano A e non c'è nessun bisogno di un piano B, le parole della cancelliera tedesca Merkel, secondo la quale la strada per Atene sarà comunque lunga e difficile. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Stanno già arrivando molti dei vostri messaggi sulla vostra percezione rispetto a come sia, che esito abbia avuto la strategia di Tsipras. Ha vinto, è stata una strategia vincente oppure ha perso, quindi perdente, si è dovuto arrendere. Continuate sulla pagina Facebook di Effetto Notte e con gli sms al 349-238-6666. Andiamo intanto, sentiamo dall'Italia quali sono state le reazioni soprattutto dai sostenitori di Tsipras. Non credo che ci sia da brindare con toni trionfalistici e non credo viceversa che ci sia da avere un atteggiamento riduttivo. Così Matteo Renzi sintetizza il suo giudizio sull'accordo raggiunto a Bruxelles. Un Matteo Renzi che fino alla fine ha spinto per posizioni più morbide insieme al presidente francese Hollande, che si è opposto fermamente al trasferimento dei beni greci all'estero. Se devi fare un fondo con i beni che vengono dalla Grecia, tu non puoi pensare di metterlo con sede in Lussemburgo e magari commissariato, perché quello è tecnicamente per me un'umiliazione. Siamo stati a un passo dalla Grexit, dice Renzi, ma alla fine hanno prevalso ragionevolezza e buonsenso. Ora occorre ricostruire la fiducia e soprattutto rinnovare l'Europa. Intanto dall'Italia arrivano reazioni contrastanti, la maggioranza applaude. Meglio un accordo che nessun accordo, dice da Forza Italia Brunetta. Critico il fronte anti-euro. Per Salvini l'accordo è una buffonata, regaliamo altri 80 miliardi e non ridiscutiamo i trattati. Questa è l'Europa, una gabbia. A questo punto meglio fare da soli. Durissimo Grillo, che evoca il colpo di Stato. La capogruppo 5 Stelle alla Camera, Francesca Businarolo. La strategia dell'Eurogruppo è quella del terrore. Colpirne uno per educarne 19. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E in seguito a questa intesa raggiunta, intanto le borse festeggiano, l'indice azionario paneuropeo Stoxx Europe 600 si porta in rialzo all'1,97%, in quattro sedute ha guadagnato il 6,32% con il maggior rally dal 2011. Dopo il balzo di venerdì, i listini del vecchio continente allungano ancora il passo, pur senza strappi. A Milano il FTSE MIB avanza di un altro 1%. E adesso siamo su altre notizie. L'attentato al consolato italiano in Egitto. Sarebbero stati identificati tra i presunti autori di questo attentato al Cairo, almeno stando a fonti della sicurezza egiziana. Si tratterebbe di tre elementi del gruppo di estremisti islamici attivo nel Sinai. Oggi al Cairo è volato il nostro ministro degli esteri Gentiloni, ha detto: l'attentato al consolato italiano è un fatto grave, un probabile avvertimento. Non ci facciamo però intimidire, ha aggiunto Gentiloni. Nel frattempo però arriva anche un allarme da Banca Italia. Nelle intenzioni ufficiali solo beneficenza, nell'uso effettivo finanziamento al terrorismo internazionale. Si nasconde anche dietro la nobile facciata della carità il sostegno economico ai fanatici del jihad, ed è questa capacità di mimetizzazione uno dei principali rischi denunciati da Banca Italia. I fondi hanno tipicamente una provenienza lecita e il loro utilizzo per finalità illecite, scrive nel rapporto annuale l'unità di informazione finanziaria, viene dissimulato attraverso attività imprenditoriali o caritatevoli. Non grandi somme, ma piccole quantità di denaro, volta per volta, arrivano al pulviscolo di gruppi islamici collegati con le organizzazioni madri, e questo, avverte Palazzo Koch, rischia di nascondere la reale entità della minaccia. Per chiudere i rubinetti alle cellule terroristiche le tecniche vanno ancora affinate, ammettono gli esperti, ma almeno le segnalazioni sono aumentate. Il finanziamento al terrorismo è una delle facce della criminalità economica che preoccupa di più, insieme al riciclaggio. Minaccia significativa, scrive Banca Italia, a causa della diffusione della criminalità economica e dei vari reati economici, a partire dalla corruzione, la cui diffusa percezione mina la fiducia del cittadino nelle istituzioni e nella politica. Raffaella Calandra, Radio 24, Sulle 24 Ore. E come vi anticipavo all'inizio, si torna a parlare anche della vicenda dei Marò, perché l'India ha concesso un'ulteriore proroga di 6 mesi a Massimiliano Latorre per restare in Italia per questioni di salute. New Delhi ha anche detto sì all'arbitrato internazionale richiesto dall'Italia. Poi capiremo quindi quali sono le possibili prospettive. Il Ministero degli Esteri italiano, fra l'altro, ha assicurato che farà di tutto anche per far tornare tornare girone. Intanto ci spostiamo sulla Costa Concordia, perché nelle motivazioni della sentenza con la quale è stato condannato a 16 anni l'ex comandante della Concordia Schettino, i giudici scrivono: l'inchino fu una scelta criminale, la responsabilità del naufragio è pertanto di Schettino. Nel momento in cui l'imputato lasciava definitivamente la nave, la situazione era tale da rendere impossibile o comunque difficile per i passeggeri ancora a bordo trovare la salvezza. Si legge ancora: Schettino, quando salì sulla scialuppa, sapeva che c'erano altre persone a bordo della nave e lo fece per mettersi in salvo con la precisa intenzione di non risalirvi. E ora di nuovo all'estero, l'Ungheria che inizia a costruire il muro anti-immigrati. L'esercito ungherese ha iniziato la costruzione di questa barriera anti-immigrazione alta 4 metri che correrà lungo 175 chilometri di frontiera con la Serbia, lo hanno reso noto fonti governative di Budapest. Poi invece una campagna negli Stati Uniti per avere statue di donne a Central Park, il parco più importante di New York, uno dei più conosciuti del mondo, un'iniziativa per sovvertire il cosiddetto patriarcato del bronzo. Le statue di Central Park sono tutte al maschile, in quello che è uno dei luoghi più visitati, appunto circa 50 milioni di visitatori all'anno, e ci sono queste circa 50 statue presenti. Non ce n'è una che renda omaggio a una donna, se non a quei personaggi immaginari come Alice nel Paese delle Meraviglie, Giulietta, eccetera. Per invertire questa tendenza, Collins Jenkins, che è discendente di Elizabeth Cady Stanton, che è attivista e figura chiave nel movimento per i diritti delle donne, ha lanciato una campagna per dare anche ai personaggi storici femminili un piedistallo a Central Park. Secondo quanto scrive il New York Times, dopo numerose battaglie, la Jenkins è a un passo dall'avere almeno la statua della sua illustre antenata eretta a Central Park. Siamo di nuovo in Italia con la cronaca. Sono deceduti entrambi, due gemellini di 9 mesi che erano a bordo dell'auto coinvolta nell'incidente sulla 12 Pisa-Viareggio. La madre in gravi condizioni è stata trasportata con l'elicottero all'ospedale di Pisa, il padre è stato tirato fuori incolume dalle lamiere. E poi il bimbo morto a Roma, la città in lutto, fiori bianchi, lacrime, abbracci per l'ultimo saluto al piccolo Marco, il bimbo morto giovedì, vi ricordate, dopo essere precipitato nel vano ascensore della stazione Furio Camillo della metro A di Roma. Una cerimonia like strettamente privata con i parenti e amici. Un minuto di silenzio ha preceduto l'inizio dei lavori dell'Assemblea Capitolina, bandiera mezz'asta negli uffici comunali, società, aziende, istituzioni, insomma lutto cittadino. L'unico rappresentante delle istituzioni era il sindaco Marino. E poi c'è stato un lutto alla Nintendo, addio a Iwata, con la Wii ha rivoluzionato i videogiochi. È morto per un tumore a 55 anni il presidente di Nintendo, alla guida dal 2002 portò la società a diventare un colosso globale grazie a Wii, alla DS, ma anche a come Super Mario e Pokémon. Per chiudere lo sport con questa notizia shock, vi dicevo, data dal campione Ivan Basso, corridore italiano della Saxo Tinkoff, che si ritira dopo aver scoperto di soffrire di un tumore ai testicoli. L'annuncio in una conferenza stampa, ne parleremo, abbiamo detto, con chi lo conosce bene, poi cercheremo anche di capire com'è stata questa scoperta, perché è un po', diciamo, controversa la questione se sia dovuta a una caduta, se invece casualmente con quella caduta ha scoperto di avere questo tumore. Comunque, intanto voi continuate con le vostre riflessioni sulla Grecia, in particolare su Tsipras, se ritenete che abbia vinto con la sua strategia oppure abbia portato la Grecia alla sconfitta. Per esempio, qualche messaggio già sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Giuseppe scrive: il dato, Roberta, non credo sia se ha vinto o perso Tsipras, ma che rilievo ha avuto per l'Europa la volontà popolare? Che rilievo ha per l'Unione Europea la legittimazione popolare? Nata dal fine di disciplinare il commercio, prima ceca, poi CE, poi UE, eccetera, si è dimostrata nient'altro l'Unione Europea che questo, un'organizzazione che cura effimeri interessi economici. Cristiano dice: quello che è emerso è una concessione uguale a un cappio al collo, mai nella normale sporcizia dei giochi di potere. Carmen dice: comunque sia, come ha detto Prodi, è l'Unione Europea che perde. Voi continuate quindi con le vostre riflessioni su questo tema al 349-238-6666, dove potete mandare gli sms oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Intanto sentiamo aggiornamenti per chi viaggia. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Emilia scrive al 349-238-6666: i greci conoscono strategie retroscena, i tedeschi sanno come muoversi. Ha perso questa Europa, scrive un altro ascoltatore, nel suo complesso nata male, condotta peggio. Comunque non dimentichiamo mai la storia della Russia sul Mediterraneo orientale. Chissà se questo potrebbe diventare l'asso della manica per il primo ministro greco. Non è chiarissimo dove vuoi arrivare, dico l'ascoltatore. Anna: Tsipras ha perso perché non ha ottenuto ciò che chiedeva, e tipo la riduzione del debito. Voi continuate continuate a dare le vostre risposte sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Tra poco qualche esperto, non proprio delle risposte, insomma delle analisi, ce le darà. Io intanto vi ricordo, se avete acceso la radio in questo momento anziché puntualmente alle 21, quali sono le notizie in primo piano. Evitata la Grexit per ora, insomma l'uscita della Grecia dall'euro, un piano da oltre 80 miliardi per gli aiuti, riforme che deve fare Tsipras in 48 ore mentre lo attacca l'ex ministro dell'economia Varoufakis, e intanto il partito di Tsipras si spacca e perde alleati. Marò altri 6 mesi per la torre, sì dall'India e anche all'arbitrato internazionale. Intanto la Farnesina dice ora ci saranno tutte le misure per far rientrare anche Girone. Il Papa che tornando dal suo viaggio in America Latina si è portato il Cristo su falce e martello donatogli da Morales, dice non mi offende, non ho preso però la coca, anche quella gli è stata offerta. Iran slitta ancora l'accordo sul nucleare, e poi le motivazioni dei giudici che hanno condannato l'ex comandante della Concordia Schettino, dicendo lasciò la nave nessuna salvezza, quindi per i passeggeri. E poi un tir che ha travolto un'auto sulla 12 tra Pisa e Viareggio, morti 2 gemellini di 9 mesi, grave la mamma, il padre è estratto in colume dalle lamiere. E l'annuncio shock di Ivan Basso, di cui parleremo al Tour de France. Ho un tumore al testicolo scoperto dopo una caduta, però c'è la possibilità, presto sarà operato, probabilmente domani, una guarigione al 99%. E poi addio a Iwata, con la Wii ha rivoluzionato i videogiochi, è il presidente della Nintendo. Europa 24 notte. The president of the president, dear friends, today we had only one objective, to reach an agreement. After 17 hours of negotiations, we have finally reached it. Someone can say that we have an agreement. Ecco, un po' di umorismo anche dopo questa maratona di 17 ore per arrivare a un accordo sulla Grecia da parte dell'Eurosummit. Nella notte è dato questo umorismo da Donald Tusk, il presidente del Consiglio europeo, che ha parlato di agreement. L'agreement sarebbe l'accordo in inglese, agreement per dire che greco, insomma, mettere insieme l'accordo e la Grecia. Ci ha rimesso o non ci ha rimesso la Grecia? Tsipras è vittorioso o no? Mentre voi continuate con le vostre riflessioni, io intanto interpello Vittorio Darold del Sole 24 Ore, che gli dà Atene da diverso tempo. Ciao Vittorio. Buonasera. Innanzitutto Vittorio, le persone, la gente comune, tu hai provato a parlare con qualcuno, che cosa dicono di questo accordo? Che è una sconfitta? Sì, se la maggioranza è frustrata e disillusa e amareggiata. C'è stata anche una manifestazione in Piazza Sintagma dove una signora, una militante di Siriza, ha bruciato una bandiera di Siriza in segno di stizza, di rabbia. Quindi c'è una parte di Siriza che sta ponendo dei problemi sempre più forti a questa situazione, creando appunto un problema al fatto che poi si voti questo piano nel Parlamento. Addirittura è uscito anche il partito, diciamo così, minore della maggioranza, i Greci Indipendenti, perché avevano fatto di questa difesa della IVA per le isole, questo sconto per le isole, una bandiera, e questo poi è stato chiesto di essere abolito. Quindi c'è veramente molta difficoltà. Probabilmente verranno in soccorso i partiti di opposizione, di Neodemocrazia, PASOK e Topotami, e quindi il pacchetto, ma il governo è diviso e c'è appunto molta disillusione nei confronti dell'Europa. Vittorio, tra l'altro, allora, la Merkel ha detto questa è la strada che sarà lunga e difficile, però dice l'intesa è stata raggiunta col piano A, non c'è bisogno quindi del piano B, che sarebbe stato la Grexit. Intanto ci vuoi riassumere i punti principali di questo accordo, che addirittura degli stessi giornali tedeschi hanno definito una lista di crudeltà, quindi vedo sì, che diversa piano stampa europea ha criticato. Sì, è un piano molto severo che chiede addirittura di fare quello che non era stato fatto nei primi 2 anni precedenti. Quindi insomma Tsipras si è chiamato a fare i compiti dei governi di Papandreou, di Samaras, di Papa Costantino, di Papa Dimos, il governo tecnico, insomma tutti i governi precedenti in una volta sola, il che è abbastanza complicato evidentemente. In più c'è questo senso di formare questo fondo che dovrebbe gestire i beni dello Stato da privatizzare, vendere, mettere sul mercato, e con questi ricapitalizzare le banche. tutto questo è una gestione abbastanza complicata, perché verrebbe gestita sostanzialmente dalla Troica, che ha chiesto esplicitamente di poter ritornare nei ministeri, poter verificare i conti, addirittura mette veto alle proposte di legge che sono contrarie all'accordo. Insomma, è veramente un controllo molto soffocante di questa nuova situazione, e tutto questo è abbastanza pesante. Naturalmente ci sono i soldi sono tanti, i crediti sono aumentati e i creditori a questo punto, anche per una mancanza di fiducia, bisogna dirlo, nei precedenti casi i greci non hanno rispettato con puntualità le richieste che avevano sottoscritto, quindi un problema sostanziale è quello di recupero della fiducia tra le due parti, questo è il vero problema. Tra l'altro, Vittorio, mi pare che abbia pochissimo tempo Tsipras per fare accettare questo piano anche dal Parlamento. Tra l'altro c'è la Presidente del Parlamento greco, che è un osso duro. Sì, Zoe Costantinopoulos è un personaggio molto popolare, è presidente del Parlamento, fa parte di Siriza, è un po', diciamo, l'anima radicale. Il padre è una famiglia di avvocati, è stato un eroe della resistenza. Sono personalità molto conosciute che fanno veramente fatica a accettare questa ennesima situazione di crisi, appunto. Questo piano di sacrifici. Il suo problema è che a un certo punto addirittura avevano pensato di poterla di dimettersi, si stava pensando alla sua dimissione, sì. Poi all'ultimo minuto il Parlamento, per cercare di capire questa posizione, sembra che lei abbia scongiurato appunto questa cosa, che avrebbe creato grossi problemi naturalmente al partito e anche all'istituzione, perché lei rappresenta sostanzialmente la terza carica dello Stato. Già. Grazie Vittorio Daroldi intanto da Atene. Ciao Vittorio. Grazie a voi. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Quindi insomma ci sono ancora vari passaggi, ci vuole il voto del Parlamento greco, poi ci vuole quello del voto tedesco, eccetera eccetera, e diciamo non vorremmo essere sicuramente in Tsipras in questo momento. Tra l'altro i media europei, dicevo, sono stati molto critici nei confronti dell'atteggiamento durissimo assunto da quella che è definita la coppia Merkel-Schäuble, cioè la cancelliera tedesca Angela Merkel e il ministro delle finanze tedesco Schäuble nei confronti di Atene, prima e durante l'Eurogruppo dei ministri delle finanze e poi nel vertice dei leader. E Berlino finisce nel mirino anche di Twitter. L'Europa si vendica di Tsipras, questo è il titolo scelto dal quotidiano inglese The Guardian. A che gioco sta giocando la Germania? Si chiede invece in prima pagina il francese Libération, sullo sfondo di una foto di Angela Merkel, mentre anche il tedesco Spiegel, quindi un giornale tedesco, sul suo sito parla di catalogo di atrocità in riferimento alle misure richieste dai ministri delle finanze dell'Eurozona. Ne parliamo adesso con Antonio Villafranca. Buonasera Antonio. Buonasera a voi. Responsabile del programma Europa dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Quindi una stampa molto critica anche interna stessa alla Germania, Antonio. Ma secondo te, questa domanda da un milione di dollari, la Tsipras ha vinto o perso a questo punto? Io credo che abbia perso assolutamente su tutta la linea. E questo è, diciamo, il momento finale di una concatenazione di errori che vanno avanti dal 2010, ovviamente non errori di Tsipras in quel caso, che iniziano proprio da Francia e Germania con le modalità con cui è stata fatta la ristrutturazione e la tempistica, molto importante, con cui è stata fatta la ristrutturazione del debito greco e poi il primo e il secondo pacchetto d'aiuti, fino ad arrivare a questa idea veramente incredibile di Tsipras di ricorrere al referendum. Uno può fare una cosa del genere quando è in una posizione di forza, ma quella evidentemente era una chiara dimostrazione di debolezza di Tsipras, che pensava che quel pacchetto, in realtà, che serviva per sbloccare l'ultima tranche di 7 miliardi, ecco, non sarebbe passato, si sarebbe spaccato Siriza. In realtà la situazione che si è venuta a creare è quella per cui c'è stato un crollo totale di fiducia nei suoi confronti e si sono alzati i toni. Nel frattempo la recessione greca si è approfondita, le banche praticamente sono fallite, non tutte magari, ma molte banche rischiano seriamente di fallire, e il costo stesso del nuovo pacchetto e anche ovviamente delle misure di austerity nei confronti di Atene è decisamente più alto. Quindi veramente l'atto finale di una concatenazione di errori che vanno avanti ormai da anni. Floriano scrive sulla pagina Facebook di Effetto Notte: dalla padella alla brace, ma fuori dall'euro anche peggio. Rosanna scrive: se non esiste un ulteriore patto segreto, ha decisamente perso, ma con lui anche tutta l'Europa. Perso, dice Ilaria, indetto referendum appositamente per figurare come nobile martire Tsipras, e poi è andata come è andata. Secondo te ha perso anche l'Europa? Cioè le colpe sono soltanto da una parte, non perché sempre, come si dice nelle coppie, 50%, perché spesso non è così. In questo caso, Antonio Villafranca? No, ma è quello che dicevo prima, è proprio una concatenazione di errori che parte dal 2010 e che partono da errori nella tempistica e nelle modalità con cui è stato fatto il primo salvataggio della Grecia, magari con un occhio troppo benevolo alle banche francesi e tedesche, a cui è stato dato magari il tempo di liberarsi dei titoli greci prima di fare l'haircut, il famoso haircut che le avrebbe danneggiato eccessivamente. Quindi c'è tutta una serie di errori, ma che porta ovviamente anche agli errori gravissimi del governo greco, che non dimentichiamolo, è vero che adesso queste misure vengono richieste con un rigore, con una tempistica francamente stringenti. inaudita, una cosa veramente che a memoria, ecco, io non ricordo veramente nulla di così stringente, non solo per gli ammontari ma anche per la tempistica. 48 ore mi sembra di tempo, sì, Tsipras. Sì, il primo pacchetto su cui legiferare deve essere fatto entro mercoledì, e addirittura entro mercoledì prossimo la riforma del codice di procedura civile. Ce la può fare secondo te? Ma ce la può fare, lo diceva prima il vostro ospite, non soltanto contando sull'attuale coalizione di governo. I greci indipendenti, che in realtà gli danno soltanto pochi voti, hanno già detto che voteranno contro. Continueranno a sostenere il governo, ma voteranno contro la proposta. È ovvio che andranno incontro gli altri partiti, lo si diceva prima, sia quelli a sinistra del PASOK che i centristi, che Nea Democratia, hanno già detto appunto che sosterranno, e quindi ce la potrebbe fare, ma è una corsa ad ostacoli con una tempistica francamente incredibile. Sentiamo anche fra i vari passaggi che cosa ha detto Renzi, dopo sono usciti tutti con delle profonde occhiaie, tutti un po' sfatti, qualcuno più soddisfatto, qualcuno meno. Sentiamo il Presidente del Consiglio Renzi. Un accordo che io giudico importante, non credo che ci sia da brindare con toni trionfalistici, e non credo viceversa che ci sia da avere un atteggiamento riduttivo. È stato un accordo che in molti momenti della nottata non è parso scontato, perché scontato non era. Un accordo che naturalmente ha riguardato la Grecia, il suo presente immediato, il suo futuro, ma credo che abbia interpellato in profondità il senso profondo del senso dell'Unione Europea, non già per le conclusioni o la possibile conclusione, ma proprio per il metodo di arrivare a una soluzione, per la lunga discussione che lo ha accompagnato. Renzo da Imperia scrive al 349-238-6666: non ha vinto né perso, ha soltanto sprecato del tempo Tsipras con un inutile referendum. Antonio Villafranca, questi 82-86 miliardi in tre anni che verranno dati come aiuto alla Grecia, ma poi in tasca ai cittadini o comunque alle istituzioni per aiutare a risollevarsi il popolo greco, quanti ne andranno? Perché si parla sempre di banche. È bene fare proprio su questo un po' di chiarezza. Allora, questi soldi anzitutto non verranno dati immediatamente, bisogna prima che ovviamente che il Parlamento deve ovviamente approvare questa legislazione, così, e anche qua se si legge veramente il wording del documento si dice anche in questo caso comunque non è detto che le negoziazioni verranno avviate. Quello che però si prevede già e si sa è che è necessario un prestito ponte. Sono necessari circa 13 miliardi da qui a metà agosto per fare che cosa essenzialmente? Per dare i soldi al Fondo Monetario Internazionale, visto che sono scaduti appunto, siano in arretrati i greci, e per ripagare anche la Banca Centrale Europea e qualche creditore privato. Quindi sono soldi che entrano e escono dall'altra parte, insomma. Diciamo questo, la cosa che normalmente la gente dice va alle banche. Allora, chiariamo questa questione delle banche. Non è vero, come diceva purtroppo il vostro ascoltatore, che ha solo sprecato tempo. Il tempo è assolutamente denaro in questi casi. Aver fatto passare anche questo tempo significa che le banche sono in enorme difficoltà, e quindi di questo pacchetto di aiuti, tra 82 e 86 miliardi, come dicevi tu, in realtà fino ad almeno 25 miliardi, io direi, dovrà andare per la ricapitalizzazione delle banche. E per questo viene peraltro istituito, questa è veramente una grande novità, un fondo a cui in pratica confluiranno le privatizzazioni. E proprio la metà di questo fondo di 50 miliardi, 25 miliardi, saranno destinati direttamente a garanzia praticamente della ricapitalizzazione delle banche, mentre i restanti 25 miliardi, che in tre anni auspicabilmente saranno poi inseriti in questo fondo, ecco, 12,5 miliardi andranno per la riduzione dello stock del debito greco e 12,5 miliardi di investimenti, quindi questa è la parte diciamo migliore. È anche vero, per chiudere anche l'analisi, che l'avvio di questo terzo pacchetto di aiuti permetterebbe alla Grecia di ricevere oltre 30 miliardi per fondi di coesione sociale, fondi strutturali che gli spettano dal bilancio comunitario. Quindi c'è anche qualcosa di positivo, ma è ovvio che la gran parte di questo prestito servirà per ripagare quelli che sono i debiti in scadenza, e buona parte di questo ovviamente è ancora nelle mani degli stati, ovviamente, ma con scadenze più avanti, ma anche delle banche, dei fondi pensione, degli hedge funds. La questione è quindi comunque complessa. Grazie intanto a Antonio Villafranca dell'ISPI. Grazie a voi, Antonio. Buona serata. Buona serata. Ci prendiamo questa pausa di ricreazione e poi torniamo insieme. Voi continuate con le vostre opinioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte, anche al 349-238-6666. Dice Barbara: purtroppo Tsipras ha perso ma non ha vinto l'Europa. Poi parleremo delle novità che riguardano il Marò e anche di Van Basso. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, ecco, sempre fino alle 22. Vedevo i vostri messaggi man mano ancora sulla questione Grecia e se la strategia di Tsipras, il primo ministro greco, sin qui sia stata alla fine, con questo esito di questo accordo raggiunto dopo 17 ore, vincente o perdente. Da Firenze, un'ascoltatrice ascoltatore al 349-238-6666 scrive: è stata inutile allora la dimissione di Varoufakis? Beh, certo, non si poteva pensare che fosse risolutiva che fossero risolutive le dimissioni del ministro, dell'ex ministro delle finanze a questo punto. Poi Giacomo da Milano scrive: è solo stato posticipato il problema, la Grecia comunque non potrà ripartire, unica soluzione è tagliare il debito come si fece con la Germania sia dopo la seconda guerra mondiale che per la riunione delle due Germanie, solo che la maggior parte del debito ce l'hanno i tedeschi, dice Giacomo. Franco: ha vinto Merkel che ha imposto la sua dittatura, certo che Renzi non perde occasione per dimostrare la sua pochezza politica, in una settimana è passato dall'accodarsi alla Merkel a Hollande che ha evitato la Grexit solo per non subire danni economici con lo scopo di affossare Siriza. Quindi continuate sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia con i vostri messaggi al 349-238-6666. Tra poco parleremo di quali novità ci sono sui Marò. Intanto vi ricordo, come succede dopo che non ci sentiamo per qualche minuto, quali sono le notizie più importanti. Sempre naturalmente la Grecia in primissimo piano con l'accordo raggiunto, Atene però ha tre giorni per le riforme, ma il partito di Tsipras Siriza si spacca, poi c'è l'ira degli euroscettici, da Grillo a Salvini, intanto però festeggiano le borse. Il caso dei Marò di cui ci occupiamo tra poco, la vicenda della Costa Concordia, nelle motivazioni della sentenza di condanna di Schettino i giudici scrivono che l'inchino della nave fu gestito in modo, fu un gesto criminale che Schettino lasciando l'imbarcazione determinò il decesso delle 32 vittime. Ciclismo, la rivelazione shock di Van Basso, un tumore al testicolo, lascio il Tour de France, poi ci occuperemo anche di questo. Nintendo, è morto il presidente della società a 55 anni, il presidente si chiama Iwata, con la Wii ha rivoluzionato i videogiochi. Quindi ora siamo al caso internazionale e senza fine, si può dire, dei Marò. Ma intanto c'è questa novità che la Corte Suprema indiana ha prolungato di 6 mesi il permesso per Massimiliano Latorre di rimanere in Italia per le sue condizioni di salute. Sapete che aveva avuto un ictus, poi ha avuto un'operazione il 31 agosto del 2014, quindi questa è la quarta estensione, diciamo, concessa dalla Corte Suprema indiana a Latorre. E poi c'è il via libera all'arbitrato. Vi avevo parlato qualche settimana fa della richiesta dell'Italia di ricorrere, dopo questi negoziati falliti in questi anni, all'arbitrato internazionale. L'India ha detto di sì, anche se bisogna capire probabilmente che non avrebbe alternativa, e ha sottolineato l'India che parteciperà per dire agli arbitri che la giurisdizione è nostra e non dell'Italia. Ne parliamo con Antonio Armellini, diplomatico ambasciatore in India dal 2004 al 2008. Buonasera Armellini. Buonasera a lei. Ambasciatore, le sembra un passo importante questo, la proroga, vabbè, per Latorre, per la sua salute sicuramente, poi non so se può essere un primo passo per dire vabbè, man mano ve li lasciamo, tra virgolette, e poi questa cosa dell'arbitrato? Ma mi sembra un passo senza dubbio positivo, perché disegna un quadro, come dire, molto meno conflittuale di tutta questa vicenda fra l'Italia e l'India. L'arbitrato era una via fin dall'inizio che poteva essere percorsa, cioè si potrebbe chiedere perché ci abbiamo messo così tanto tempo, ma questo oggi non avrebbe più né senso né utilità. Credo che sia il segno che, tanto da una parte come dall'altra, questa vicenda ha preso molto troppo tempo, molto troppa attenzione, e deve arrivare a una soluzione che rispetti, come dire, le priorità e le esigenze di ciascuno, e che risponda anche a una logica che sia dal punto di vista giuridico ma anche dell'opportunità internazionale coerente. L'arbitrato questa possibilità la offre. In questo la proroga ulteriore di 6 mesi rientra evidentemente in un ragionamento che credo fortunatamente è stato fatto, immagino, perché ovviamente non ho nessun modo per sapere quali siano stati i dettagli del negoziato, della trattativa, ma immagino che si sia svolto lontano da fanfare e da strumentalizzazione di un tipo o dell'altro, e credo che questa è sempre la cosa migliore quando si tratta di affrontare problemi internazionali spinosi. Ambasciatore Armellini, ci spiega in cosa consiste esattamente l'arbitrato internazionale? Cioè ci saranno un terzo soggetto che dovrà giudicare? Beh, gli arbitrati sono in realtà una forma di risoluzione di controversie che si applicano a tutti i livelli, si applicano normalmente sempre sul piano commerciale, e la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare prevede anche la forma dell'arbitrato per risolvere appunto problemi del tipo di quelli che si sono verificati fra l'Italia e l'India. E l'arbitrato prevede che il giudizio venga deferito, come dire, giustamente una terza, gli arbitri appunto, che vengono individuati, ciascuno, ogni paese individua ciascuno un proprio arbitro, che poi dopo il collegio viene completato da un terzo che viene nominato a seconda dei casi, adesso non mi ricordo la convenzione dell'UPROS esattamente che cosa prevede, o d'accordo fra le parti o direttamente nell'ambito delle Nazioni Unite, nell'ambito della convenzione che regola questa procedura. Quindi è un sistema che permette, come dire, di risolvere una controversia evitando di passare attraverso una giurisdizione contenziosa fin dall'inizio. Lei diceva, la parte indiana sosterrà che la giurisdizione in questa vicenda è indiana. Noi sosterremo una cosa diversa, starà alla Corte arbitrale stabilire chi ha ragione e qual è la via da seguire. A quel punto ciascuna delle due parti si dovrà tenere, ovviamente. Certo, ricorrere all'arbitrato presuppone che le due parti poi si impegnino fin dall'inizio a riconoscerne la validità del risultato. Per chiudere, ambasciatore Armellini, lei pensa che ci possano essere buone possibilità che questo arbitrato internazionale si risolva positivamente per l'Italia, nel senso che ci sia un rientro definitivo dei due Marò, poi si saranno processati, insomma, si decideranno. Ma credo che sono aspetti sono abbastanza diversi, nel senso che l'arbitrato è una procedura che, come lei sa, richiede del tempo. Normalmente nel caso di procedure di questo tipo, come dire, è anche possibile chiedere alla Corte la possibilità che le persone coinvolte, in questo caso i nostri due Marò, invece di rimanere, come dire, in particolare questo riguarda soprattutto Girone, che rimane in India, invece di continuare ad essere consegnato in India, che i soggetti fanno parte dell'arbitrato vengano spostati o in un paese terzo o anche nel paese di provenienza in attesa del verdetto arbitrale. Io credo che da questo punto di vista ci sono, immagino, delle buone possibilità di fare in modo che i due Latorre e Girone possano comunque non essere della decisione che prenderà del tempo, e questo è già un fatto positivo, no, su quale dobbiamo lavorare. Ma una cosa è la procedura, una cosa è il rientro dei due Marò in Italia. Grazie ambasciatore Armellini, intanto attendiamo questo tempo che deve trascorrere. Grazie ancora. Grazie a lei. Viabilità e poi dopo parleremo di Van Basso. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ancora qualcuno dei vostri tanti messaggi che stanno arrivando su col vostro commento sul fatto che Tsipras con questo accordo raggiunto così duro abbia vinto o perso. C'è Andrea da Bologna che dice: soldi nelle banche di Lussemburgo e garanzie della Grecia, questa è l'essenza dell'Europa, tolleranza zero contro i cravattari. E poi non ci si improvvisa statista, il capo del governo greco ha dimostrato che è un dilettante, purtroppo i dilettanti in Europa ce ne sono troppi, dice un altro ascoltatore. Mentre Mirella scrive al 349-238-6666: l'Europa ha punito duramente il fatto di aver indetto il referendum, era un pericoloso precedente. Poi gli altri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, però adesso vi ricordo, se avete acceso la radio in questo momento, le notizie principali. Evitata la Grexit con l'intesa raggiunta, un piano da oltre 80 miliardi di aiuti, però Tsipras deve fare riforme in 48 ore. E poi Maroni, abbiamo appena parlato, altri 6 mesi per la torre sono stati concessi dall'India e l'India stessa che ha detto sì all'arbitrato internazionale. E poi il Papa che è tornato dal suo viaggio in America Latina con il Cristo sulla falce donatogli da Morales, presidente della Bolivia, e poi ha detto: non ho preso la coca, l'abbiamo sentito in quella battuta iniziale. Ancora non c'è l'accordo sul nucleare iraniano. E poi un tir che ha travolto, questa è una brutta notizia di cronaca, un'auto sulla A12, morti 2 gemellini di 9 mesi, grave la madre. Annuncio shock di Van Basso, di cui stiamo per parlare. In the stage number 5 I have a really small crash, but on the crash I touch my testicle on the saddle and for a few days I feel small pain. Questo è Ivan Basso che ha parlato in conferenza stampa e che ha detto appunto che si ritira dal Tour de France perché con una caduta che ha avuto, ha fatto alcuni esami e si è accorto, insomma sono accorti i specialisti, di questo tumore al testicolo. Ne parliamo con Pier Antonio Stagi, grande esperto di ciclismo. Pier Augusto Stagi, che è il nostro esperto di ciclismo, che segue sempre per noi il Giro d'Italia, il Tour de France, è inviato per Radio 24, amico di tanti campioni. Pier Augusto. Sì, ciao, buonasera. Ciao Piero Augusto, tu lo conosci bene tra l'altro Ivan Basso, anche per un rapporto personale. Guarda, moltissimo, lo conosco da tanti anni, da quando era ragazzino, quando credo ha mosso le mie prime pedalate, all'età di 14 anni, era categoria lieve, era proprio un bimbo che cominciava a farsi strada in questo mondo che lui ha sempre amato e ama in maniera profonda, e poi appunto è diventato quello che è diventato, un grande campione, un corridore che è riuscito a salire sul podio del Tour de France 2 volte in carriera, terzo e secondo, e che soprattutto è riuscito a vincere 2 giri d'Italia. Ha avuto alti e bassi, no? Intanto ricordo che ha 37 anni, di Gallarate, vicino a Milano, ha avuto poi anche una squalifica per doping, a un certo punto però poi si è riscattato, Pier Augusto. Sì, lui ha vissuto il momento a livello sportivo più nero nel 2006, nel 2005 era arrivato secondo alle spalle di Lance Armstrong, quell'anno Armstrong raggiunse il record delle 7 vittorie al Tour, lo volle sul podio del Tour de France e col microfono in mano disse: il mio erede qua di fianco a me, fece segno a Ivan Basso che aveva in braccio la piccola Domitilla. L'anno seguente Ivan partì coi favori del pronostico, era il favorito numero uno, correva per una grandissima formazione danese, aveva grandi ambizioni e grandi chance, se non che scoppiò in maniera violenta lo scandalo dell'Operazione Puerto, quello che ha avuto come protagonista il ormai famoso ginecologo delle Canarie, che era Ufumano Fuentes, che era esperto nella manipolazione del sangue, e i corridori ricorrevano a lui per fare dell'autotrasfusione. Ivan ammise la sua frequentazione, ma non ha mai l'uso dicendo alle autorità competenti che lui aveva appunto estratto del sangue che era poi stato congelato, l'aveva tenuto nella banca che teneva appunto il Fulmano Fluentes, nel caso poi ne poteva fare uso in determinati momenti, però ciò nonostante questa sua confessione gli procurò 2 anni di squalifica. Ivan li fece con grande dignità, fece un percorso molto importante sia come uomo che come atleta, comprese l'errore che ha fatto, si mise a disposizione tra l'altro delle autorità competenti a cominciare dal governo mondiale della bicicletta. E però si è rimesso in pista Piero Augusto. E cambiò radicalmente. Adesso vorrei chiedere ad Andrea Salonia, che saluto, che è urologo, andrologo, direttore dell'Urological Research Institute dell'Ospedale San Raffaele di Milano e spesso ospite di Cuore Denari con Nicoletta Carbone e Deborah Rosciari. Buonasera, Salonia. Buonasera. Senta, Ivan Basso ha detto che se n'è accorto durante una caduta, o meglio sembrerebbe, così dalle cronache, che lui abbia detto che sentiva un dolore da qualche giorno, poi con questa caduta ha fatto degli esami e si è stato diagnosticato questo tumore al testicolo, mi pare che lo opereranno domani, insomma, o a breve. Può essere che sia stata la caduta a procurarglielo, oppure è una questione anche meccanica, non so, per i ciclisti non è il massimo forse stare sul sellino fatto come quello delle bici da corsa, oppure tutto ciò non c'entra niente, è difficile capirlo. Io vorrei pensare che quest'ultima tra le ipotesi sia quella più veritiera, e che paradossalmente il fatto che questo grande corridore sia caduto, abbia avuto comunque un trauma a livello scrotale, gli abbia permesso di riconoscere, di mettere in evidenza qualcosa che subdolamente si stava già annidando a livello del suo testicolo e si stesse annidando da più tempo. Perché in realtà i dati scientifici che correlano l'attività sportiva con una comparsa di questo tipo di tumore sono assolutamente irrisori, e ancor più i dati che correlino dei traumi sono proprio molto scarni, per cui è molto più probabile che nel paradosso della sfortuna sia stato fortunato, perché quella caduta ha permesso di mettere in evidenza qualcosa che altrimenti sarebbe cresciuto, probabilmente causando danni maggiori di quanto già oggi non si è riuscito a fare. Quindi bisogna dire meno male in questo caso che sia caduto così, ha fatto questi esami e se n'è accorto, però sembra che al 99% hanno detto dovrebbe guarire senza problemi. Sì. Beh, guardi, secondo me il mondo del ciclismo, il mondo dello sport in genere negli ultimi anni ci ha abituato a capire quanto importante sia fare una buona diagnosi e una buona terapia. Lo stesso Armstrong ebbe un tumore testicolare, divenne famosissimo perché da malato riuscì a guarire e da neo guarito riuscì a vincere più volte il Tour, con tutte le sequele poi che il doping e la sua storia sottolinearono. Ma più recentemente, se solo pensate a Francesco Acerbi, il calciatore, anche egli persona di grandissimo coraggio ma allo stesso tempo persona normalissima, che ammette: io ho avuto un tumore testicolare e sono guarito, ne sono stato nuovamente ammalato perché ebbe una recidiva e ne sono guarito. Di questo abbiamo parlato già a Cuore Denari nello spazio di Salute Uomo or Sono con Nicoletta alcune settimane or sono. È proprio così, cioè esiste ad oggi una particolare attenzione rivolta ai genitali maschili che prima non c'era, e questo è bene dirlo. E non perché si faccia sport, perché fondamentalmente le persone che fanno sport sono più sotto controllo. Esattamente. Grazie Andrea Salonia. Quindi l'importanza della prevenzione. Poi Piero Augusto Staggi dice: però Ivan Basso, affronterò questa prova con la grinta di sempre, con la positività che mi avete trasmesso con i vostri messaggi. Gli auguriamo tutto il meglio, ma senz'altro guarirà. Grazie Piero Augusto, grazie anche a te. Grazie, buona continuazione. Buona serata. Ciao Piero Augusto, noi ci sentiamo alle 22.